Non lo faccio, vediamo un pochino, perché io alle 3:30 devo uscire di nuovo, cioè rientro e rientrerò verso le 5:30, verso quell'ora. Adesso lo chiamo a vedere che la viene a prendere. Ci sentiamo ragazzi, la lascio accesa così riscalda, voglio vedere se è tutto a posto. Ci sentiamo dopo, statemi bene, è bella bufala, passare bene, ok? Sono entrato io sì. Io ho dormito alle 11, ho chiuso, mi sono andato a letto. È un bel stanco lui, un bel. Capito? Ma stasera mi devo, quando esco al lavoro, passo, mi prendo quel condensatore, quella resistenza, così domani. Un attimo, vabbè, sono al lavoro, domenica mi metto, me lo finisco quel lineare, così a posto. E qua torna tutta la normalità. Ma scusa, anch'io vado a mangiare, sentiamo dopo. Microfono normale. L'M5, perché con l'hambre. Quindi li abbiamo mai più. Allora, come se cazzo è possibile vedere il stazionario? Non lo so, guarda, non posso dire, non lo so. E ho rifletto l'antenna e qua. E abbiamo scelto giù, piazzata, controllata, tutto quanto, fatto del tutto quanto il controllo, e sta uscendo come il vento, sta uscendo. Ah, vabbè, segnale c'è, forse. Però non c'entra niente la microfonia con l'antenna. Guarda, wow, adesso ho alzato un po' il macchinino, com'è? Un po', mettilo a manetta. E dai, adesso a 10. Già ho migliorato un po'. Mi chiede l'apparecchio a manetta. Gamba, si è manettato. Strano. Una pompa a faccia. Quanto a manetta, che sia tono e macchine del microfono, è tutto a manetta, anche quello del baracchino. Che strano, certo. Poi con la batteria scarica, no? E poi ti si batteri un po' con barlocche. E quella carina gli ho messo, gliel'ho preso dal supermercato, quello superfila gli ho preso, alcalina. Io l'ho già crepata questa batteria. Ci vuole una batteria non buona, ci vuole. Beh, adesso vediamo un po'. Adesso la facciamo riscaldare questo, vediamo un po' come esce, vediamo un po'. Strano che non fosse. Secondo me c'è un problema di batteria. Non lo so. La batteria è nuova, la batteria è nuova e... Che boh? Non lo so. Adesso stasera, o domani, lunedì, provo, gliela ricompro, vado da Colla Fusaro e le faccio dare una di quelle cariche. Ciao, che capo stai usando? E tu? Che capo stai usando? Ha sempre due R58. Ciao. Sai cosa è? Se non avessi avuto quello grosso l'ha fatto molto molto meglio. Ora solo nella posizione che sono io, tu, quel capo grosso non lo posso piazzare perché non me lo permette, capito? Io glielo ho fatto passare dentro la fissura della finestra del poggiolo, capito? Dunque ci passa a mano appena quel capo lì, se ne metto il grosso tocca fare un buco grosso, capito? Non posso permettere di farlo. Non posso permettere, non mi danno l'ok per poterlo piazzare, capito? Perché non vuole, è la padrona, capito? Dunque, anzi, già il coso mi ha fatto piazzare questo qua, per fortuna. E se li metto quello grosso, dico devo mettere il capo grosso, o mi sicuro pure a me e al baracchino. Vabbè, ti tieni quello. Andiamo a vedere una testa. Va bene, una testa. Vediamo un po' come asciuga. La scena nuovamente giù, ricontrollo il piede che non si sia nuovamente bagnato, quella roba lì, capito? E glielo asciugo. Ecco per un controllo. Cosa devi asciugare? Ho detto cosa dici, per non avere problemi, metterci un pochettino di grasso. Guarda che c'è un break, fai entrare il break. Avanti il break, con la buona sera. Il break. Metterle un po' di grasso, hai capito? Già devi spammare questo il piede. L'hai fatto, vai. Oh, non l'abbiamo fatto, non avevo abbandonato il grasso, sennò l'avrei messo. Poi ci mettete sparando noia sicuramente. Tu fai come ti dico, mettete il grasso. Perché quando ti metti il grasso non pensi. ricordo quanto quant'è, ma era, no, guarda, sinceramente non mi ha messo, l'aveva fatto roba e torna rapido quello lì. Ma gira bene? Cazzo, se gira bene. Lo sapevo da spesa, se lo fa sentire, se me lo fa uguale, lo faccio. Ami quello, ti ho dato 48 ore. No, no, no, no, questo qua che faccio vedere i figli, questo non fa dei colpi. Ma non ho capito, allora, spiega il passo qua. Allora, lo voglio, ma non per far casino, assolutamente. Lo voglio per così fare i collegamenti, ci organizziamo noi assieme al 45 a fare un po' di casino, capito? Non per altro. No, no, tu organizzati con gli altri 45, che io non mangio di far ritirare la patente. Ah, così un po' di passaggi, mica, cosa devo trattare di rapadinchio? Io chiamate via, voi, dalle prove, punto. Poi se sono il 27 ancora meglio, capito? Ma buona, non c'è problema. Cosa stai dicendo la tua? Scusami, ripeti. Che l'ha fatto Roberto Rapido, quello lì l'ha fatto. Abbassa un po' l'amplificazione, io l'ho abbassato, no? C'è troppo alta, tu abbassa. Cazzo, più faccio di così, va meglio adesso. Allora non gridare, siamo il forte del radio. Ripeti, Roberto Rapido. L'ha fatto lui quel paracchino. E non so che l'ha fatto lui, ma volevo sapere, a parte di tutto volevo sentire il baracchino di tuo padre. Se qualche giorno lo attacca, lo fa sentire quello che gli ha modificato lui, e in più volevo sapere quanto gli aveva preso. Che l'ha fatto? Tipo, di quando eravamo non me lo ricordo, che ci ha fatto qualche annetto, ci ha fatto. Però già te lo faccio sentire un po'. Va bene, diglielo, non c'è problema. Perché se lui, allora, questo qua ha un problema, che segnali forti forti, tipo, allora, Fabrizio, anche Claudio, secondo quanto esce, lo sento male in ricezione. Se usano potenze normali, tipo 50 watt va bene, 40, 30, però se aumenta i watt e il segnale va più forte, la modulazione inizia già ad essere brutta. Per via della ricezione dell'apparecchio. Se mi mette a posto l'apparecchio in ricezione e mi mette questo Echo Colt, voglio sapere quanto vuole prima. Secondo quanto vuole lo faccio, se no no. No, la mia volta ha pure 250 euro, allora. Se uno deve fare il lavoro è così, se no devo solo dire così com'è. Purtroppo quelli sono lavori che costano. Capito, ma dico, non è che ci posso buttare 250 euro così, me ne mette solo la scheda accolta e boh. Non mica devi pulire i canali, ci sono già, bip da modificare, da farlo Colt. Però vabbè, quando la possibilità tuo padre, se lo vuole, me lo vuole far sentire questo apparecchio. Così più o meno me rendo conto, perché l'apparecchio è uguale al mio, uguale identico, solo che lui ha una banda in più. Caffa, non te la faccio sentire, no? 250 poi Roberto. Stasera, un cazzo. Non c'è, non te la faccio sentire. Caffa, comunque, ha preso così, cioè, penso che aveva preso sempre 200 euro, non me lo ricordo, guarda, posso dire anche una palla, però quello che abbiamo noi esce bene. Esce bene, ma lo fa, ma un di cazzo diciamo, l'altro, il Midland, l'87, è ancora più forte. 250 euro vuole Roberto, perché mi ha modificato il 231 e non si sposta mai da quella cifra. Considera Luca che la scheda accolte, questa mi pare... poco più di 100 euro mi pare, una cosa del genere. La scheda accolta è col bit, tu ce l'hai già il bit, quindi a te però se ti prenda 200 euro. No, allora la scheda accolta, stavate a vista su internet, la scheda accolta più veloce il bit costa 40 euro, tutte e due. E tu dici 80? No, 40 euro, sono due schede, 40 euro costano tutte e due. E una bisogna saperla montare. E allora vi vediamo, se riesco a procurare lo schema mi buongo e me l'abbia studio. Adesso mi organizzo, se riesco a procurare lo schema. Vedi, non se ne va più attacca a lui. Come? Fammi vedere, non se ne va più attacca a lui. No, ammazza un po' qua. Ma non ci riuscito a fare studio di voce, allucinato. Mi siete ammazzendo, ah, perché io sono gatto la macchina attacca 140, siete forti, se sono uno amici, a uno ce l'ho me. Siete un bel forte di radio, non lo so. Claro, questo baracchino si è attenuato, perciò ti ascolto bene, ma è troppo forte la radio, anche Antonio. Vedi, Giuseppe in confronto è basso, va bene, dai, diciamo. A uno ce l'ho io, gettando l'attaccatino allora, di te dello zocco. A uno ce l'ho io, sto parlando piano piano. Cosa devo fare? Te lo pongo a meno di uno, te, così, avanza. Ora sei perfetto. Boh, allora si può essere baracchino, ma vabbè, là, ti ho attenuato, ti ascolto bene, ma è forte la radio, mi si crepano di tutti i nobili. Questo te l'ho detto, è arrivato stamattina, e adesso stavo chiamando un attimo, ma non risponde, forse al lavoro, e passerà stasera a prenderselo, là. Va bene, d'accordo. Comunque, Roberto, i lavori li fa, bene. Ti dico che a me Massimiliano ha modificato questo BV131 dal doppio le vatte, perché ne era 200 anziché 100, e l'ala 48 lo fa scoppiare, lo fa rullare alla grande, che ha visto un bellissimo lavoro, io l'ho aperto, non si vede niente, è bravo, la radio mia è stata fatta, è quella di Gigi Vulcano, quindi non ho problemi, è quella che aveva in camion Gigi, la prima che ha preso, è stata fatta in Sicilia da Piero Lumaccone. Poi anch'io sono propenso a fare Galaxy Mi, Luca, stavo parlando con Luigi, lì ci va solo la scheda a colpi lo stesso, capito? È già pronta, lì c'è anche l'attacco, non so, c'è anche la spinetta già pronta per la scheda a colpi. Però Bruno, non ce ne voglio spendere soldi in questi baracchini, capito? C'è la 48 che ci rumagna, lo Galaxy, lo Daifone e canto bene. Andiamo sul piano, sul radio che sono principiale, a te così, dipende sempre da chi la fa, dipende sempre da chi mette le mani e da chi la fa. Io ho sentito Magnum e Tenonda, sono dei piccati che sono una cosa impressionante. No, lascia perdere, no, non lo dico io, non lo dicono tutti, la 48 con la scheda a colte, no, ci sono baracchini che lo superano, come timbrica, come forza, no, la 48 mio c'ha 40 watt di potenza, picco, è una bestia, lasciati lì, lascia perdere, la 48 per me è il numero uno quando è modificato, no, non ci sono radio che lo possono superare, questo non lo dico io, lo dicono tutti. Perché anche Giovannino c'ha il coso modificato, il Galaxy Pluto, no? Non ha nulla a che fare con la 48, infatti ha detto che si riattacca la 48. Io non voglio disprezzare niente, però per me, io ho avuto l'S9 modificato, ho avuto l'8001 modificato, ma non ha niente a che fare con la 48. Ma ti ripeto, non lo dico io, lo dice Gigi, che è quello che è questi baracchini, è lui che ha iniziato a modificarli, quindi l'ala 48 è il numero uno, non c'è niente da fare, pom pom, beh, poi è fatto in una maniera tale da spingere alla grande, il mio è una bestia, c'ha 40 watt di modulazione, picco proprio alla grande, infatti hanno bruciato lineare con Massimiliano. Va bene, chi era l'altro che stava parlando con te? Luca, poi chi c'era? Mi pare più certo. Che ho fatto? Ora, io ho sentito il conto, ho sentito. Mamma mia, che radio che c'ha. È paurosa. Però lo sai, quelli che mi piacciono, quelli che ho sentito migliori, quelli di Franco Bumera. Esci una radio spaventosa. L'anno 48 sono micidiali, sono. Dipende anche da chi lo porta, capito? Da chi lo usa. per chi lo usa come regolato, io ce l'ho sempre a 2,5 watt con l'amplificatore, poi quando sento l'amplificatore lo tengo a manetta 40 watt. Però io ho il Mickey Gain e la posizione dell'eco neanche a mezzogiorno, capito? È appena aperta, ce l'apro tutta e è disastrosa con la radio. Ma lo so perché l'ho comprata la Gigi e quindi mi sono fidato di lui. Quella è fatta e dentro non puoi toccare niente, è tutto resinato, è tutto chiuso, non puoi toccare niente, non devi fare nessuna regolazione, capito? Sono le prime che aveva fatto Piero, quindi è così. Va bene, Lugarie. Chi è questo qua? Sì, aspetta un attimo, Claudio, arrivo. Cos'è questa cosa, Claudio? Hola. E che sta musica? Non tengo nulla io, no. E quanto ti è arrivato? Dopo uno mi arriva. Sento niente io, ma col coro ti curica, sei 9,5 abbondante tu, non sento niente il tuo io, non sento niente, c'è il QRM a 6, 7. No, io il mio QRM è 0,0. Ah boh, ma di che musica? Ehi, Santiago Zinco, no? Mi ha fatto quella che mi ha colto. Vedi le ticche. Ok. Non lo so, non sto tenendo sotto controllo sta radio di tiro. Cazzo, c'ha le picche di modulazione allucinanti. Minchia, un bel forte. Che fa? E quando ti arrivo quello di tiro? Quasi 9 più 10, sì. E già va bene. Ho aumentato la potenza. No, va bene, va bene, c'è problema. Che ha fatto? Ci possiamo lontane. Allora. Va bene. Avanti, chi era l'altro? Giuseppe, chi era? Cos'è il QRM? Che ha fatto? Tramonti. Si sbaglia un pistone, si sbaglia. Si crede il tubo già che tu. Ma perché così stronzo? Che ma col gardena. Caffa. Sicuramente in cacchello pura la macchina non per discussione. Ma a me no. Ma quel pelo mi goica. Aspetta che rispondo al telefono. Caffa. A voi anche tu sei un bel cucchietto. È latino, in ansia. Ah, in ansia? No, perché l'hai avvisato. Sì, l'avevo già avvisato che arrivava oggi. No, ma quando mi dicono venerdì c'è la radio, venerdì c'è la radio. Ha giocato un corriere, quindi me l'ha portata prima consegna alle 9 alla 4 mattina, figurati. Cazzo, ma quanta è nuova, cioè, l'ha detto, ma sei sicuro che è tua la radio? Non è che te ne ha mandato una nuova, no? Non dire che l'ha uccidata. No, l'ha comprata nuova lui, non l'ha mai usata, lo usava poco, poi un fulmine, una tensione sbagliata, ha bruciato il modulatore, quindi gli ha messo il modulatore nuovo. E gli era rovattino, capito? Senza farle pagare neanche una lira. Con me le persone che meritano non ci sono problemi. Sì, chiaro. Ma che tu metti nel modulatore costa un pochino, Non c'è problema. Questo è un amico, capito? Mi aveva un'altra, pezzi di ricambio, nuovo, il modulatore, gliel'ha messo dentro, l'ha tutta tarata, c'è un laboratorio, tutta testata, gli ha fatto un check-up generale. Non so neanche quanto volevo mandare, ma mi ha mandato la radio e basta. Poi già ci sentiamo per telefono, ma arrangio io, l'importante è che Tino sia contento. Caffa, l'importante è quello, Ma non ne ha paracchini, non ne ha. No, io glielo volevo dare uno, non ne ha voluto, ma ha detto no, non mi interessa. Quando è giusto la mia, allora rientro, siccome è un periodo un po' valoroso anche per lui, allora glielo ho messo a posto io e stasera passa e se la lettita. Non è mai uscito col baracchino. Ah, se arriva col baracchino io la mocino baracchino, capito? Gli avevo dato l'MS200, gli avevo dato un bel baracchino, coltame più 3, corsa lenta, coltame più 2, coltame più 4, coltame più 5, M600, M500. Era come voleva lui, non c'erano problemi, se no ne ha voluto. Ma l'antenna a posto, sarà, o l'antenna ha crepato, scusa. No, l'antenna già è a posto. L'antenna sua è a posto, poi questo c'ha l'accordatore automatico, quindi non ne ha problemi. Vabbè, però, l'antenna deve essere efficiente. Strano, sicuramente l'ha preso di striscia, l'ha preso. No, non è un fulmine, praticamente è andato in tilt l'alimentatore, infatti adesso io voglio stare attento perché quell'alimentatore voglio vedere cosa cacchio c'ha, ma adesso al limite prima di attaccarla scendo e le provo le tensioni a vedere se è giusta 13,8. È andato, sembra che sia andato in tilt l'alimentatore, e la radio era accesa e è arrivata una tensione molto alta in volts all'oscillatore di frequenza e l'ha bruciato, capito? Maledetto, voglio via. Ma è importante che c'è di aggiustata, no, ma via. Ci sono cose che succedono purtroppo. Cioè si fa incazzare quando si bruciano per il polizia. Allora, alimentatore le switch, diciamo, ora va via. No, Tino c'ha tutta la linea del 440, c'ha il PS50 della Kenwood, no? C'ha il PS50, l'MC60, la radio e la colonnina esterna, c'ha tutta la linea completa, gliel'ho fatta comprare io tanti anni fa, capito? Un po' di anni fa, però la radio è nuova, no? Non è mai stata, questa è la prima volta che le mettono le mani, ma gliel'ho fatta mettere da una persona abbastanza competente. Vabbè, da uno che ne capisce. Vabbè, allora è mattore tecnico, sia sul laboratorio, io l'ho contattato così perché mi sono ricordato, gli ho detto se per caso le capitava un 440 usato a pezzi di ricambio, mi ha detto che cosa ti serve, mi ha detto guarda così e così, sembra che sia la scheda CPU, ma a me non mi sembra, mi ha detto guarda, per non sapere se scrive mandamela e vedo un po' che cos'è, mi l'ho mandata, mi ha telefonato, mi ha detto guarda che non è la scheda CPU, è praticamente partito l'oscillatore di frequenza perché la radio non altro, ho detto sì ma non appare il display, sì perché è partito il diodo che mantiene, che appare sul display, quindi ha cambiato quel diodo, l'oscillatore, l'ha tutto, c'è la tomba, l'ha sistemata e sta funzionando, cazzo è nuova sta radio, minchia quanto è nuova. Ah, meno male dai, hai provato a attaccare col baracchino a proposito? Quale baracchino? Quello che ho fatto. Sì, non accende. E fammi, siamo detto che ci vediamo domenica mattina. Ma già glielo ho già detto a Giuseppe, non c'è problema. Domenica mattina lo do a Fabrizio e già si arrangia lui. Nel caso non si riesce a tirarne i piedi, lo mando da questo mio amico lo stesso e glielo faccio mettere a posto. Che fa? Non è vero, quando tu metti l'alimentazione, proprio che tu sei qui, Giorgio, quello alimentatore, comincia ad assorbirsi. Quale l'alimentatore? Eia, proprio come che ci sia qualcosa in corpo. Sì, no, c'è le bobinette bruciate, ci sono dell'alimentazione. E poi hanno surriscaldato molto i finali, quindi Appigliate, non avete pazzinata, gli avete Giuseppe, non pensare che ci possa essere uno spiraglio, se c'è si mette a posto, ma sicuramente non c'è niente da fare, o non ne vale la pena, vediamo. Sì, sicuramente bisogna vedere, già si trovano quelle bobinette, sì. Sì, che si trovano, sono delle bobinette piccoline con degli avvolgimenti, sono delle bobine alta tensione. Cattura dal vento quanto sta aumentando? Già me ne sono accorto già. Vabbè, proviamo bene. Io sono 3-5, alle 3:20 mi preparo e me ne vado a farmi ancora qualche altra ora, dai. E poi si vedrà, non c'è problema. Ma meglio così, dai, meglio che si risolva questa cosa, quindi tu l'hai già visto. Io l'ho visto così, mi sembrava pure a me che c'era così bruciate. Sì, sono le bobine di tensione sopra, prima della taglia finale, che sono bruciate, capito? Non è quello il problema, va alla grande, tranquillamente. Va alla grande, quel problema bisogna sostituire tutta quella parte lì e tutte le altre cose che ci sono. Allora, ma già l'ha pigliata il corsa, già. Ma il corsa gli ha pigliato? Bubu. Schiaffa. Vabbè, da forse una distrazione. Una distrazione che costa, una cosa cara. Bisogna vedere, ti ripeto. Miracoli non se ne possono fare, però se si possono fare già si fanno. Guarda, Maxon, Maxon, quello che gli avevo fatto io, nuovo. Cazzo, gli è successa una scarogna terribile, gli è successa. Praticamente mi è uscita l'antenna di questa. Lo stile dell'antenna è andata a modulare, fatto sul baracchino. E se ti si stacca l'antenna dalla sede interna va in corto, è chiaro, perché il puntale è dentro, quindi l'antenna, ma la radio non c'è massa e ti va in corto, sì. Vabbè, non se n'era accorto lui. Non se n'era accorto, stava viaggiando, stava, non se n'era accorto, cazzo, a questo punto, stava parlando, sentiva sempre la destra, che più piccola, più piccola. Sta parlando, a questo punto che ha bruciato. Sicuramente ci stanno parlando di finali, qualche altra cosa. Sicuramente è partito qualche cosa, andiamo a vedere. Certo. Ora non è per vantarmi, non voglio dire niente a nessuno, però in tanto tempo io non ho mai bruciato una radio, in mano mia. No, neanche io sinceramente. Un fulmine 5 anni fa me l'ha bruciata una a me, ma è stata una negligenza mia che non ho staccato le antenne. C'è un temporale, mi sono completamente dimenticato. Affa. Fu nella scarogna una si è bruciata dopo, cioè non è che si è bruciata, sono andate via le memorie così, mentalmente toccata. Era lì, guardi proprio. Lasciamo perdere una scarona. Io ho tutte quelle che ho, se funzionano. Sono funzionanti, sì, non c'è problema. Ho voglia che funzionano, qual è il problema? Va bene, va bene. Allora, Luia, cosa ci vuoi fare? Ma Lucariello non c'è più. Perché Antonio ragiona con la stessa, ognuno ragiona con la stessa sua, e ognuno è diverso dall'altro, perché quando io sono convinto di una cosa che deve andare così e basta, che faccio, ho quelle convinzioni che poi magari le cose mi funzionano sempre bene per quel motivo lì, se no mi sono incazzato. mandando bestemmie e cosa, ma le cose non funzionano come voglio io. Lo so, è così Anto, è proprio così, non cambia assolutamente niente, va bene, ok. Luca, ci sei o non ci sei? Ma quando tu c'è Antonio a parolaccia in capo a Tonero, vuol dire che qualche cosa no, una volta c'è rotazionaria, ma c'è anche una cosa. Stazionare sono una brutta cosa, Anto. Stazionari a me non mi hanno mai dato fastidio, perché la verità, una volta avevo sbagliato la taratura della molla e sui canali alti c'avevo un po' di stazionari, ma una giornata di sole sono salito, ho messo una radio portatile tipo quella che c'hai tu, con lo smetto attaccato sotto l'antenna, ho tarato la molla, c'ho uno, neanche 1,1 dal canale 1 sino al canale 80, sotto l'1 manco ci muovo, è proprio perfetta. Già, va bene, va benissimo, va. Un giorno c'ero stazionario, stavo impazzendo un po', poi ho capito che cosa era. C'avevo le palle a 1000, ci ha detto. Il capolato nero. Perché poi io quando ho detto a scoprire che cos'è mi incazzo. Allora devo scoprire a tutti i costi. Hola. Devo scoprire a tutti i costi, hai capito? Ma ci hanno fatto così, proprio tu la ragione, ma io, guarda, sai che non mi ha messo così con là, così deve stare con l'antenna, per me. Però io so già che sta funzionando, io sono ammirato, cioè, ma giù un capo così e boom, ho capito, come dico io, ma come dicono gli altri. Si conferma, già va bene, non c'è problema. Io molte volte voglio le cose fatte sempre come dico io, molte volte sbaglio, sbaglio qualche volta, ma ho pensato, c'è sempre da fare, io le cose le devo far andare bene come ti dico io, molte volte sto capificato con chi sai chi. Roberto, anche quelli sono dei punti di vista che poi uno vede, capito? Uno vede, se no cosa? Bisogna misurarsi ogni tanto, no? Tu c'hai un'opinione, un parere e io ne ho un'altra, però non c'è bisogno di bisticciare con nessuno. Però è sempre come dico io, a quante volte è capitato che lui sbaglia e io ho ragione. E già ti ho capito, è una cosa matematica quella, non c'è da discutere molto, capito? Si conferma. Va bene. Ok, grazie, guarda. Avanti. Come stesso. E va a travagliare. E sono già quasi le 3:10, preparo anche io. Ci sentiamo stasera, vai. Ciao a tutti, anche quelli che stanno ascoltando. A stasera, ciao. Ciao.